Amici d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Francesco Rosario Averna, da secoli, una ricetta segreta. Di Anna Marino. Rigorosamente segreta, come del resto in tutte le storie familiari di questo tipo. Io conosco altri imprenditori, non solo italiani, ma di altri paesi, che sono tutti molto gelosi della ricetta originaria e la tengono molto ben chiusa in cassaforte, diciamo, e a disposizione di pochissime persone della famiglia. Il rito è quello che ognuno deve meritarselo, no? E quindi deve fare molta gavetta fino a quando viene giudicato degno, tra virgolette, adeguato al compito di preparare questo prodotto. Francesco Rosario Averna è amministratore delegato del gruppo Averna, che comprende la Fratelli Averna S.p.A., la Pernigotti S.p.A., la Villa Frattina S.p.A. e la CFL S.p.A. Il gruppo occupa 380 dipendenti diretti e 300 indiretti e fattura circa 200 milioni di euro. Dopo la laurea in giurisprudenza, entra nell'azienda di famiglia, fondata dal bisnonno nel 1868 e portata a livello nazionale dal padre Emilio. Quella del gruppo Averna è una storia di famiglia, di ben 5 generazioni, di passione e di sapori tramandati, che affonda le sue radici nell'antica terra di Sicilia e che della Sicilia ha voluto esportare i colori e la luce. Il mio rapporto con il territorio è stato sempre, diciamo, di odio-amore, nel senso che io amo la Sicilia in un modo viscerale. Quando vado fuori e torno poi in Sicilia, non immagina che meraviglia sia, soprattutto nei mesi primavera e estate, aprire la porta dell'aereo e sentire proprio il profumo dell'aria che ti arriva proprio pieno, no? Nelle narici, ed è una cosa che non si può descrivere. La luce dell'aria, la luce del cielo, così come il mare, così come i nostri monti, la nostra Etna, che è una meraviglia. Di contro poi ci sono certe abitudini consolidate della nostra gente che spesso mi danno molto fastidio, per esempio il desiderio di essere assistiti, la mancanza di iniziativa che spesso vedo, la meritoria iniziativa che è stata anche di recente presa dalla Confindustria, comunque non è una novità assoluta, non è che la lotta alla mafia da parte degli imprenditori sia una novità. Oggi probabilmente c'è stato anche una presa di posizione, vorrei dire istituzionale e statutaria, che ha i suoi meriti, ma non pensiamo che gli imprenditori siciliani siano sempre stati proni nei confronti del fenomeno mafioso, perché questo non è affatto vero. La storia imprenditoriale della famiglia Averna comincia nel 1854, quando a Caltanissetta il commerciante di tessuti Salvatore Averna, uno dei membri più attivi della comunità, giudice di pace e benefattore del convento dell'Abbazia di Santo Spirito, uno splendido esempio di architettura normanna del XII secolo, riceve in dono dall'amico Fra Girolamo, frate cappuccino della stessa abbazia, una ricetta segreta, un elisir di diverse decine di erbe, radici e agrumi provenienti da tutto il mondo, che, pur essendo definito amaro, è buono e possiede doti toniche e terapeutiche. Custodita per anni la ricetta come ricordo dell'amico frate, nel 1868 Salvatore comincia una piccola produzione da omaggiare e far degustare agli ospiti di casa Averna. E il successo è inaspettato, come racconta Francesco Rosario Averna. La storia comincia l'anno prima dell'arrivo di Garibaldi in Sicilia, nel 1859, perché in quell'anno il mio bisnonno Salvatore Averna, che era un ricco commerciante di tessuti, che aveva avuto successo, pensiamo anche che Caltanissetta aveva avuto nella prima parte dell'Ottocento un boom economico senza precedenti, perché era diventato il centro minerario più importante d'Europa nella estrazione dello zolfo, e come tutte le famiglie agiate dell'epoca trascorrevano l'estate in una casa di campagna, e quindi lui scelse questa zona a circa 3 chilometri dalla città, in una bella vallata, e acquistò un casale preesistente da circa un paio di secoli con un ampio terreno intorno. Lui era un cattolico praticante e a poche centinaia di metri, circa 600-700 metri da questo casale, c'era una abbazia di frati cappuccini che aveva antichissime origini, perché aveva origini normanne, un'abbazia del XII secolo, molto bella. E quindi cominciò naturalmente a frequentare questa abbazia e divenne anche uno dei principali benefattori di questa chiesa, di questi frati cappuccini. Uno di questi frati si chiamava Fra Girolamo e aveva l'hobby, si direbbe oggi, dell'erboristeria, cioè creava delle miscele per fare dei liquori che lui sosteneva avevano delle proprietà medicinali molto ricche. E in una di queste occasioni, di uno di questi donativi, di queste elemosine di Don Salvatore, gli diede e gli regalò per gratitudine questa ricetta, che a suo dire era la migliore che aveva fatto. Don Salvatore si appassionò a questa cosa e ne fece dono ai parenti e ai migliori clienti anche del suo negozio. Di bicchiere in bicchiere, di palato in palato, il sapore dell'amaro riscuote sempre più favori, tanto da indurre il figlio di Salvatore, Francesco, a dedicarsi alla produzione dell'amaro su più vasta scala e a varcare i confini dello Stretto prima e nazionali poi, ricevendo numerosi encomi in prestigiose fiere internazionali dell'epoca. A cavallo dei due secoli, l'infuso di erbe medicamentose si vende ormai in molte regioni d'Italia e la piccola distilleria di Xiboli si è trasformata in una fabbrica con 20 operai. Nel 1912 la fama del prodotto è ormai tale da indurre Re Vittorio Emanuele III a concedere alla società Averna il diritto di apporre lo stemma con la scritta «Brevetto della Real Casa» sull'etichetta del liquore e di diventare così fornitrice della Real Casa. La famiglia ha avuto la fortuna di avere un figlio di Don Salvatore, il figlio cadetto di Don Salvatore, che a questo punto scelse di operare in questa neonata piccola azienda artigianale di liquori, ed si rivelò un imprenditore illuminato, una persona con molto lungimirante. Lei pensi che cominciò a viaggiare non solo in tutta la Sicilia ma anche fuori, e anche fuori d'Italia. Cominciò a fare delle fiere internazionali e cominciò a fare delle vere e proprie campagne pubblicitarie in cui illustrava le doti quasi miracolose di questo elisir. Fu lui che fece tra l'altro creò l'etichetta che ancora oggi c'è nel nostro prodotto, e chiamandolo Amaro Siciliano Averna. Nel 1921 Francesco muore improvvisamente e la moglie Anna Maria prende con coraggio le redini dell'azienda, diventando uno dei primi esempi di figure imprenditoriali femminili in una Sicilia di altri tempi. La terza generazione, ovvero i quattro figli di Francesco e Anna Maria, Salvatore, Paolo, Emilio e Michele, riescono nel difficile intento di incrementare ulteriormente il successo di Amaro Averna, nonostante il periodo estremamente critico, come quello tra i due conflitti mondiali. Nel 1958 i quattro fratelli decidono di dare un decisivo impulso allo sviluppo dell'azienda familiare e la trasformano in una società per azioni, la Fratelli Averna S.p.A., ammodernano l'opificio e lo dotano dei primi macchinari moderni. Con la terza generazione, mio padre e i suoi tre fratelli scelsero, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di fondare una società per azioni, riammodernarono la fabbrica costruita dal nonno e a quel punto scelsero di andare su una produzione di carattere industriale che si sviluppò poi nel corso degli anni 50, degli anni 60 e successivamente. Tra le decisioni più lungimiranti da loro prese, quella di non distribuire utili, ma di reinvestirli interamente per la crescita aziendale. Negli anni successivi, l'azienda si dota di una rete di vendita nazionale e di una serie di manager esterni per i reparti produzione, amministrazione e vendite. Nascono i primi nuovi prodotti come l'anice stellato, il Fernet, i liquori alla frutta e nel 1968 iniziano le prime campagne pubblicitarie in televisione. Essere in quegli anni su Carosello rappresentava un vero diploma di laurea per le aziende più dinamiche. Ecco come è cambiata la comunicazione nei ricordi di Francesco Rosario Averna. Scelsero anche di arrivare in pubblicità, in televisione, ci vollero alcuni anni perché c'era la fila delle aziende, soprattutto per il mitico Carosello. È stato un momento fondamentale perché questo liquore che proveniva da una piccola impresa familiare del centro della Sicilia, quindi di un posto tutto sommato abbastanza periferico rispetto al mercato di riferimento nazionale, che era prevalentemente al nord e che fece conoscere il nostro prodotto a livello nazionale. Nel 1971 il fatturato raggiunge il primo miliardo di lire. Nel 1978 Amaro Averna diventa leader del mercato nazionale ed entra definitivamente nel costume e nei rituali delle tavole italiane. Dal 78 ad oggi, la quarta generazione degli Averna, Anna Maria, Maria Luisa, Francesco Rosario e Francesco Claudio, quella che oggi ha in mano le redini dell'azienda e gradualmente allena la quinta generazione a entrare in campo, ha ampliato ulteriormente l'attività. Francesco Rosario Averna spiega la sua ricetta non segreta per il passaggio generazionale. Ogni generazione ha inserito quella successiva dal basso, cioè facendogli fare molta gavetta. Questo è quello che mio nonno ha fatto con mio padre, questo è quello che mio padre ha fatto con me e questo è quello che io ho fatto con i miei figli. Vale a dire, non illudetevi di arrivare subito, per il fatto di far parte della famiglia, non illudetevi di avere una posizione di comando, diciamo. La responsabilità va di pari passo con l'impegno e va di pari passo con l'acquisizione di capacità e di esperienza. Nel bilanciamento tra imprese e vita, Francesco Rosario Averna ha un perno su cui tutto ruota: i valori cristiani. È indubbiamente difficile, perché a volte ti trovi davanti a dei dilemmi. Mia abitudine è quella di raccogliermi in preghiera, perché soprattutto negli ultimi anni, diciamo, la dimensione personale della fede per me è stata sempre più importante. Io sono un imprenditore cristiano, però io ho imparato che affidarsi a Dio nei momenti difficili e cercare comunque di conciliare i valori dell'impresa e i valori cristiani è possibile. Probabilmente alla fine della mia vita la mia azienda forse sarà un po' meno ricca di altre, però ci avranno lavorato persone più felici e questo mi basta. Io ho iniziato alcuni anni fa un percorso di fede qui nella mia città, tra l'altro in un convento di cappuccini, quindi anche questo è un po' un ritorno alle origini. E poi ho rivisto il presidente De Luci, D'Angelo Ferro, che avevo già conosciuto nel mio impegno in Confindustria anni prima e che mi ha invitato in questa organizzazione. Ho scoperto di avere tanti amici imprenditori che cercano come me quotidianamente, con il loro impegno nell'impresa, di conciliare i valori del mercato, i valori dell'impresa e i valori cristiani. Sono gli anni 90, infatti, a segnare l'espansione commerciale di Averna nel mondo. Il brand, già conosciuto e apprezzato negli Stati Uniti e nel centro Europa, in particolare in Germania, negli ultimi anni incrementa significativamente la propria notorietà su scala mondiale. Oggi la rete distributiva internazionale porta i prodotti del gruppo in circa 50 paesi. Nello stesso periodo il gruppo Averna conclude una serie di importanti acquisizioni sul mercato nazionale. Noi quindi abbiamo deciso di espandere l'azienda sia territorialmente, entrando in nuovi mercati, e dall'altra parte di poter vendere anche altri prodotti oltre all'amaro nel nostro paese. Oggi siamo sicuramente in una situazione migliore di quella dell'inizio della crisi. La ricetta dell'amaro Averna resta ancora top secret, gelosamente conservata dalla famiglia e sempre alla ricerca del gusto pieno della vita. Francesco Rosario Averna spiega che cosa vuol dire portare la Sicilia nel mondo e nel cuore. Portiamo i profumi della Sicilia, ma vorrei dire, spero, anche i valori che questa famiglia e questa impresa ha dentro e li portiamo in giro per il mondo sperando che bevendo il nostro amaro sentano anche i buoni profumi della vita che questa famiglia e questa impresa cerca di trasmettere. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.